Sicuramente questa non è una scelta incomprensibile nei termini per cui arriva dopo anni di mobilitazione del corpo studentesco e non solo contro la militarizzazione dell'università e contro tutti quegli accordi che sostengono il genocidio in Palestina. Quindi penso che la decisione di stoppare questo accordo è anche chiaramente perché c'è un corpo studentesco, ma non solo i docenti si sono mobilitati, i ricercatori e ricercatrici si sono mobilitati, il personale tecnico si è mobilitato in questi anni per opporsi a un processo di militarizzazione costante delle nostre università. Quindi per noi non è una scelta incomprensibile, ma una scelta che arriva in un momento in cui da anni le mobilitazioni studentesche sono forti. In questo senso si fanno sentire in moltissimi momenti pubblici, di assemblee, di iniziative, di dibattiti, di seminari, di piazze, eccetera. Tu dicevi, c'è stata una pressione, diciamo, dalla destra politica che ti è Per sembrato di noi vederla il da fatto parte del che, per noi il governo. fatto che tutto il Consiglio dei Ministri si sia espresso in coro per l'approvazione di questo nuovo curriculum in filosofia ci restituisce appunto, cioè, una volontà di militarizzazione crescente della società tutta in questo clima di escalation bellica globale che si fa ogni giorno più violento e più mortifero. E quindi per questo, no, un po' ci siamo chieste come mai questo polverone mediatico per 4 giorni su di fatto cosa? Su un curriculum in filosofia, li leggiamo certamente. Quindi una intenzione che è più ampia ed è quella di una militarizzazione della società tutta in questo contesto. Intanto in tutte le università d'Italia in questi anni ci sono mobilitazioni uguali a quelle che stiamo portando avanti noi qui e quindi chiaramente il nostro auspicio è che questi processi di militarizzazione si stoppino qui a Bologna nella nostra università in cui per noi chiaramente è più immediato mobilitarsi, ma in generale in tutti gli atenei, ma anzi mi viene da dire ovunque, perché prima parlavo di città che vengono usate a palcoscenico per carri armati, come nelle scuole superiori con l'alternanza scuola-lavoro, quindi chiaramente noi in quanto contesto specifico di vita ci attiviamo sull'università, ma sappiamo leggere una tendenza che è generale e chiaramente la nostra lotta guarda a uno stop della militarizzazione in toto.